Salva Danaio di Deborah Rosciani. Giornata a tutti da Deborah Rosciani, una giornata che, come dire, conclude una settimana che è stata tutt'altro che buona per i mercati finanziari, per le notizie economiche. Oggi le borse europee, anzi adesso, sono positive, non tutte, lo abbiamo già detto nel giornale radio. Parigi sale dello 0,18%, Francoforte più 0,57%, Milano più 0,11%, ancora indecisa Londra e, per non saperne leggere né scrivere, ancora in calo dello 0,28%. E insomma, dopo una partenza positiva hanno cambiato direzione, poi ripreso il territorio positivo. Questo ancora una volta ci dà il segnale di quanta indecisione e quanta incertezza ci sia ancora fra gli investitori. E comunque la situazione, tutto sommato, stamattina tiene rispetto al deciso ribasso che è stato registrato ieri sera da Wall Street e oggi anche a Tokyo, che ha chiuso comunque con un calo di circa 2 punti. Tutto sommato anche il Giappone ha retto questa mattina. Ci apprestiamo, come dicevamo, a chiudere una settimana che è stata pesantissima per i mercati finanziari. Questa è stata probabilmente la più pesante dall'inizio della crisi finanziaria, quella che fino a qualche mese fa definivamo la crisi dei mutui subprime, che poi ha assunto proporzioni ben diverse e ben più ampie. Settimana pesante perché? Per l'ordine delle notizie che si sono accanite sugli investitori e anche per lo scenario che si sta delineando ormai con una certa chiarezza. Recessione negli Stati Uniti, lo dice il Fondo Monetario Internazionale, taglio dei tassi in vista in Europa, almeno secondo le indicazioni che ha voluto dare ieri il presidente della Banca Centrale Europea, Jean-Claude Trichet. Attenzione, non è che arriverà subito il beneficio anche sui mutui a tasso variabile, perché i tassi interbancari ai quali sono agganciati stamattina sono di nuovo in tensione, si rischia la paralisi del credito e quindi anche su questo elemento questa tensione si risente. E in tutto questo, insomma, come se la passa la borsa italiana questa mattina, partendo dal presupposto generale non proprio bello che vi abbiamo fatto, ma ormai lo conoscete bene, andremo al particolare commentando la settimana di Piazza Affari con Massimo Rastelli, private banker di investitori SGR Gruppo Allianz, che saluto. Rastelli, buongiorno. Buongiorno. Però, visto che abbiamo fatto come al solito il nostro bollettino di guerra d'apertura, domani invece vuole rassicurare i lettori e gli investitori plus 24 delle Sole 24 Ore, andando proprio ad indagare fra tutti quegli strumenti di investimento che in questa fase ci possono proteggere al massimo. Vitaliano D'Angerio, buongiorno. Sì, ciao Deborah, anche buongiorno agli ascoltatori. Allora, magari prima di sentire la nostra scheda e andare nel merito della settimana di Piazza Affari, anticipiamo già qualche tema di plus di domani. Sì, sicuramente ci sono gli strumenti su cui, insomma, su cui andare per essere sicuri. Certo, qualcosa si perde sui rendimenti per quanto riguarda i titoli di Stato, però lì c'è una certezza, insomma, non dico assoluta, ma quasi, su quello che è appunto l'investimento. Poi facciamo una panoramica anche un po' su quello che è il fondo interbancario che garantisce i conti correnti, anche i conti online, sulle polizze vita, che così nell'occhio del ciclone in questi giorni, però ci sono anche dei prodotti buoni in questo settore. E poi anche daremo delle indicazioni in particolare per i possessori dei bond Lehman, perché abbiamo fatto degli approfondimenti in proposito. Ci sono banche che però trattano con altre banche a cui si possono rivendere questi Lehman Bond ovviamente con un forte sconto. Però se uno vuole informarsi può leggere appunto Plus con la tabella che abbiamo, anche i prezzi abbiamo di alcuni bond Lehman, e poi rivolgersi alla propria banca e chiedere appunto con chi trattare per la vendita di questi bond. Quindi, insomma, un'indagine piuttosto accurata. Perché l'avete voluto impostare in questa maniera, Vitaliano? Avete anche voi ritenuto che questa sia una fase di alta tensione per molte famiglie italiane, per cui, insomma, anche per rassicurarle sul fatto che la banca a cui si rivolgono ogni giorno non è in procinto di fallire e tutti gli strumenti di investimento non sono poi cattivi investimenti? Bisogna, come dicevamo già la settimana scorsa con un'altra copertina, bisogna avere i nervi saldi, perché in questo momento chi ha i nervi saldi può anche fare degli affari, tra virgolette, come dicevamo l'altra settimana. E chi ha i nervi saldi, come dire, può guardarsi intorno e cercare di non vendere questi prodotti con dei forti, appunto, delle forti perdite, oppure, e quindi avere la calma e serenità, anche perché, insomma, la situazione dovrebbe rasserenarsi alla luce di quello che diranno, che faranno stasera in America i deputati del Congresso. Anche se, come dicevamo ieri con Corrado Caironi di BlackRock Italia, sicuramente la fase di recupero rispetto alle conseguenze della crisi sarà lunga e pesante, però comunque, come poi in tutte le fasi ovviamente difficili, si tocca prima o poi il fondo e poi si riparte. Massimo Rastelli, prima di commentare la settimana di Piazza Affari, lei come la vede, insomma, questo scenario che stiamo disegnando questa mattina, anche questa grande ricerca di protezione in questo momento, di prudenza da parte degli investitori, soprattutto i piccoli? Io la vedo esattamente nel modo in cui l'ha descritta lei nell'ultima parte, cioè il mondo non finisce, non finirà neanche questa volta. Noi siamo soprattutto nel pieno di una crisi di fiducia che ha degli elementi reali, indiscutibili, sottostanti, che sono poi la crisi finanziaria, ma come diceva il suo collega prima, questo è il momento nel quale, avendo nervi saldi, si possono fare degli affari. È chiaro che l'orizzonte temporale in cui ci si deve proiettare non può essere l'immediato. Bisogna avere anche una certa pazienza. Ecco, se questi elementi sono presenti nel piccolo risparmiatore, ma così come nell'investitore professionale, probabilmente questi sono i momenti nei quali si fanno i migliori affari. E intanto andiamo, a proposito di affari, a sentire quello che è successo nella settimana che si sta chiudendo a Piazza Affari. Ovviamente oggi avremo avuto l'occasione di inserire altri temi di discussione, li racconteremo in diretta. Intanto sentiamo a Milano cosa è successo almeno fino a ieri sera. È stata una settimana da dimenticare quella che si chiude oggi per le principali borse mondiali. La crisi finanziaria che da mesi sta scuotendo i mercati si è abbattuta senza fare distinzioni sui listini internazionali, scatenando il panico tra piccoli e grandi investitori, italiani compresi. Lunedì, in una sola seduta, S&P e MIBTEL, i principali indici della borsa milanese, hanno ceduto oltre 4 punti percentuali, scendendo ai minimi degli ultimi 5 anni. E nei giorni seguenti le cose non sono migliorate. Nell'occhio del ciclone ancora una volta sono finite le banche, affossate dai timori di un espandersi della crisi in Europa in seguito alle nazionalizzazioni del colosso franco-olandese Fortis e della britannica Bradford & Bingley. Non a caso la maglia nera di Piazza Affari, considerando l'intera settimana, spetta a UniCredit, che in sole 2 sedute di passione ha bruciato circa 11 miliardi di euro di capitalizzazione e ha visto scendere le proprie quotazioni ai minimi di 11 anni. Calo superiore ai 10 punti percentuali anche per Banco Popolare e per Seat Pagine Gialle, quest'ultima penalizzata dal forte indebitamento societario. La pioggia di vendite ha coinvolto però anche settori tradizionalmente considerati difensivi, come quello energetico, trascinato al ribasso dalla flessione del greggio sceso sotto i 100 dollari al barile. Tra i peggiori del comparto, Tenaris, che ha ceduto in 5 giorni circa il 12%. Non è andata meglio a Fiat, che nonostante abbia confermato gli obiettivi per l'anno in corso, ha lasciato sul campo l'11%, scendendo sotto la soglia dei 10 euro. Tra i pochi titoli in territorio positivo, invece, a parte le utilities, spicca Mediaset, complici le indiscrezioni riguardanti un possibile ingresso nel capitale del magnate statunitense Warren Buffett. A testimonianza del fatto che proprio in periodo di forti ribassi come quello attuale, c'è chi decide di approfittarne per fare affari ed entrare sul mercato a prezzo di sconto. 800 24 00 24, vi ricordo il numero verde per interagire con noi, con me, con Vitaliano D'Angerio di Plus 24 e Massimo Rastelli, Private Banker Investitori SGR. Rastelli, allora, questo clamoroso caso della settimana, UniCredit, ci ha spaventato e non poco, perché insomma in molti si sono addirittura impauriti al punto da dover cominciare a pensare di dover andare a ritirare il deposito o il conto corrente, insomma chiudere il conto corrente. Insomma, quello che è successo su UniCredit ha dato davvero la misura dello stato di tensione generale, e quando comincia a riguardare anche una banca di questo tipo che muove volumi non indifferenti e quindi si sono mossi evidentemente investitori di un certo peso, è chiaro che poi si fa presto anche a far spaventare la popolazione tutta, no? Che cosa è successo questa settimana? Ma allora direi che il punto di partenza rimangono gli Stati Uniti. Gli speculatori, chiamiamoli così, che poi fanno una funzione, hanno una funzione nei mercati azionari, così come in natura, oserei dire, ce l'hanno certi tipi di di animali, cioè quelli di selezionare laddove c'è una debolezza. Ecco, gli speculatori in America hanno individuato il facile obiettivo del settore finanziario e delle banche in particolare e hanno determinato certi effetti sulla base di difficoltà che realmente stavano sotto queste banche. L'abbiamo visto, i fallimenti di Lehman, i fallimenti di Bear Stearns in precedenza, si sono accelerati dei processi che peraltro avevano delle cause reali, no? Delle difficoltà reali. L'intervento piuttosto deciso sia nel divieto di vendita allo scoperto adottato dalle autorità di controllo della borsa americana pensavo che citasse quello che è stato decretato dalla Consob e volevo anticipare, poi spiegheremo anche in che cosa è consistito il riflesso, insomma, sulle contrattazioni di questa misura. Dicevo che appunto questo provvedimento della borsa americana mettendo un freno alle vendite allo scoperto, che sono lo strumento d'elezione per ottenere questi effetti devastanti al ribasso, è stato un primo punto. Il fatto che poi sia in corso di approvazione questo piano ha, come dire, chiuso in parte il fronte americano nella speculazione a ribasso contro i finanziari e ha aperto quello europeo. In Europa la situazione è chiaramente molto migliore dal punto di vista della sostanza delle banche, tranne alcune eccezioni, però si è aperto questo nuovo fronte, ovvero in qualche modo attaccare i titoli di alcune di queste banche, determinando un effetto a catena di perdita di fiducia, crollo del titolo, perdita di fiducia ed eventualmente ricopertura, no? Riacquisto degli stessi titoli a prezzi più bassi. C'è stata un po' di inerzia, secondo me, nell'autorità di controllo, in particolare italiana, in questo momento, per cui questo ha permesso di scatenarsi contro, ad esempio, il titolo Unicredito. Se poi uno mi chiedesse esattamente quali sono le notizie sulla base delle quali il titolo è stato messo nel mirino come titolo a rischio, io francamente non ne riesco a trovare nemmeno una. Che l'esposizione sulle attività tedesche è un aspetto che probabilmente è stato molto discusso, un'esposizione che è costata questa politica espansionistica di Unicredit nelle attività dell'est, nell'area dell'est, e poi ecco la possibilità che potesse intervenire anche nel salvataggio di Ipo Real Estate in Germania. Questo secondo lei non è stato un aspetto sufficiente per almeno scatenare parte delle vendite, non dico tutte? Guardi, In questo settore la cosa che ho imparato è che le notizie possono essere sempre lette nei due sensi, positivo o negativo, anzi tre, neutro. In questo caso l'argomento che mi è molto chiaro di attacco di alcune delle banche europee, tra cui anche ad esempio Fortis, è stato: hanno fatto acquisizioni importanti recentemente. Prima dello scoppio di questa crisi finanziaria, probabilmente hanno pagato o strapagato le banche in giro per l'Europa e quindi come tale si sono appesantite a prezzi troppo alti, no? Valutando queste acquisizioni in maniera troppo importante. Il problema è che poi noi dobbiamo anche ascoltare cosa ci dicono i manager di queste società, soprattutto se hanno una credibilità molto alta e consolidata, come nel caso di Unicredito. Quando ci dicono che il patrimonio immobiliare di Povereinsbank è stato sostanzialmente ridotto di qualcosa come 15 miliardi di euro e quindi il rischio residuo nel settore immobiliare tedesco è di fatto stato quasi annullato, quando ci dicono che nella partecipazione al salvataggio della Ipo Real Estate la componente a rischio per Unicredit è solo di 300 milioni di euro, stiamo parlando di una banca che impieghi oltre 100 miliardi, insomma i casi sono due: o ci crediamo come ci abbiamo creduto in tempi normali, oppure smettiamo di credere a questa come a qualunque altra affermazione, e allora si scatena la fase del panico, che non è una fase in cui qualcuno può razionalizzare ciò che succede, no? Ai titoli. Diciamo che il mercato sembra averlo appreso, almeno in queste ultime giornate. Intanto aprirei i microfoni ai nostri ascoltatori e abbiamo scelto questa domanda di Massimo dalla provincia di Milano, perché questo è un aspetto che proprio con Vitaliano D'Angelio la scorsa settimana avevamo parlato, anche in questo caso preannunciando, anticipando i contenuti di Plus 24 di sabato scorso. Massimo, buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno. Allora, come appunto avete visto, la mia domanda è questa: io faccio conto poco più della metà dei miei risparmi investiti su Nasdaq, perché lavoravo per aziende tecnologiche americane ed è investito veramente lì. Ma le faccio solo un esempio, adesso senza menzionare il nome dell'azienda, no? Ma un'azienda che ha una capitalizzazione di 6 miliardi, un fatturato di 2 miliardi, 1,5 miliardi di dollari contanti cash, non ha debiti e fa utili ancora adesso normalmente, no? E ha un PSUE di 9, 8, un PSUE per il prossimo quarto di 5. Allora io dico, ma c'è qualcosa che non torna, o come dite voi il mondo si ferma, altrimenti sì, potrà magari diminuire un po' gli utili, perché per l'amor di Dio ci sarà un rallentamento, sono cose che comunque che servono al mercato mondiale. No, Massimo, ascolti, io sentendo con molto interesse i parametri della società che ci ha indicato, comunque noi ovviamente, non essendo il Nasdaq, non riusciamo, no, ce la dica qual è, perché siccome... Ma io le dico, sto comunque comprando. Non ho capito, Massimo, ma non ce lo vuole dire? Sì, no, al nome dell'azienda? Sì. Sì, si chiama Memce, è un'azienda che fa water per il settore dei, dei componenti elettronici e per le cellule fotovoltaiche. Per insomma, un ambito di nicchia. Esattamente. No, tra l'altro la sentiamo male, Massimo. Nel settore tecnologico eravamo andati settimana scorsa, quando la storia di copertina era il ritorno ai fondamentali. Sì, sì. Infatti avevamo segnalato proprio una sorta di sdoganamento della new economy. Tieni conto che queste settimane anche il Nasdaq ha sofferto molto, ha perso tantissimo, però al di là appunto dei crolli del listino tecnologico, abbiamo segnalato da degli studi e dagli approfondimenti che abbiamo fatto la grande liquidità, il grande cash che hanno in pancia titoli come, non so, come la Apple piuttosto che Microsoft, ma Cisco, Oracle soprattutto, tanta liquidità che ha consentito, che gli sta consentendo anche fino a qualche giorno fa di reggere il colpo. Onestamente adesso non ho seguito l'andamento. Insomma, il problema è che non sanno come impiegarla? No, è che solitamente le aziende tecnologiche, mi spiegavano, hanno questa capacità di fare cash, e in particolare in questo momento quelle più focalizzate sul B2B, cioè sul business per altre aziende. Quelle invece più focalizzate sul consumer avranno dei problemi, visto che ci sarà che c'è una recessione in arrivo, insomma. Quindi insomma, tutto sommato, un settore che ha retto agli scossoni generali e che però evidentemente non potrà che subire anche il rallentamento. Certo che se poi il freddamento dell'economia arriva dall'India, arriva dalla Cina, è chiaro che questo ambito ne risentirà forse in prospettiva ancora un pochino di più. Un cuscinetto di liquidità che hanno, poi bisogna vedere, chiaro che, ma comunque non dovrebbe fermarsi il mondo, come diceva anche il dottor Rastelli. Infatti ci mancherebbe altro. Antonio da Lecce invece ci fa spostare in tutt'altro ambito, benvenuto. Buongiorno a tutti e complimenti per la trasmissione. Grazie, io Antonio. Vi seguo ogni giorno. Senta, io vorrei chiedere al vostro esperto, io ho dei pronto conto termine con UniCredit Banca. Se nel caso tutto dovesse andare male, chi mi garantisce qualcosa? Allora, Antonio, intanto le ribadiamo l'assoluta certezza relativa al fatto che abbiamo garanzia. Io mi sento di poterlo dire, perché davvero qua sarebbe la fine del mondo, perlomeno nel nostro paese, se la situazione per UniCredit volgesse al peggio, e non lo crediamo assolutamente. Però insomma, il rischio di un tipo di strumento di investimento di questo tipo acquistato presso una banca, questo è un discorso che si può fare a prescindere dal fatto che sia stato comprato presso UniCredit. Massimo Rastelli, allora, il pronto controtermine, intanto magari ricordiamo in cosa consiste questo strumento di investimento, perché a quanto pare in questo momento ci si stanno posizionando in molti ritenendo di acquistare un prodotto di grande liquidità che permette di mettere a riparo il proprio capitale, no? Almeno temporaneamente. Certo, il pronto controtermine è una forma di raccolta utilizzata dalle banche che, a fronte dell'acquisto e della messa in garanzia di titoli normalmente di Stato, offre alla scadenza di questa operazione al cliente che ha fornito i capitali per fare questa operazione un tasso di interesse garantito e predeterminato netto. Il pronti controtermine quindi è una forma di raccolta che la banca ha alternativa al deposito, all'emissione di obbligazioni, al finanziamento nel settore interbancario, e costituisce un'obbligazione primaria della banca nei confronti della controparte, del risparmiatore, così come quando il risparmiatore deposita i propri soldi su un conto corrente, quindi un obbligo di categoria 1. Quindi la domanda appunto mi dà lo spunto per ricollegarmi al panico, no, che si è determinato. Allora, mettere in discussione la possibilità che l'UniCredit onori la sua obbligazione nei confronti di un cliente, ripeto, dal mio punto di vista è un'opzione a cui non penso, non voglio pensare, a cui non credo nella maniera più assoluta, come dicevo prima. È proprio un sintomo della situazione di panico. Io direi al nostro ascoltatore di stare assolutamente tranquillo, nella maniera più assoluta, su quelle che sono le sue aspettative. 800 24 00 24, faccio fare la domanda anche a Fausto da Roma e poi da questo suo spunto partiremo per la seconda parte della nostra trasmissione. Fausto, eccoci a lei. Sì, buongiorno e grazie per avermi dato lo spazio per l'intervento. Io mi riferisco alla perdita di fiducia che gli investitori, i risparmiatori hanno nei riguardi delle banche, tutte nazionali e internazionali. Ma voglio capire, è possibile che un titolo come Lehman, accreditato e certificato, venga inserito nei patti chiari fino al venerdì successivo al default? No, allora, l'ho già detto, c'era fino alla mattina stessa in cui il fallimento era già avvenuto, quindi questo è un altro tema. Quindi voglio dire, se non vogliamo perdere quel briciolo di credibilità che ci possiamo ancora, c'è la possibilità di costituire dei comitati di garanzia, insomma, in qualche maniera, cioè il risparmiatore non può entrare al venerdì e acquistare un titolo. Anche le agenzie di rating, questa mattina vedevo una stima sul petrolio a $50, la stessa casa che aveva detto un mese fa 200. Allora era Goldman Sachs, quindi Mary Lynch stamattina l'ha cambiato. Fausto, la ringrazio, abbiamo capito perfettamente la natura del suo messaggio, di chi ci possiamo fidare. Questo è il tema del grande dibattito in questo momento in corso negli Stati Uniti, ma anche in Europa le regole dovranno cambiare, anche i regolatori, i vigilanti dovranno assolutamente rivedere il loro ruolo. Sì, Vitaliano, dare un taglio al conflitto di interessi, soprattutto all'agenzia di rating. Infatti, sulla questione patti chiari, anche sul motivo per cui ancora il rating non era aggiornato. Ci siamo ritrovati a Salva Danaio per discutere. Volevamo fare la puntata dedicata un po' a quello che è successo in settimana a Piazza Affari, commentare anche le prospettive delle società quotate. Poi, come al solito, come sta capitando da tutta la settimana, in realtà gli interventi dei nostri ascoltatori sono di carattere più generale. Il clima di sfiducia sta imperversando e naturalmente ci condiziona in tutte le nostre scelte, soprattutto in quelle di investimento. Se adesso abbiamo un piccolo capitale, chi può dirci dove possiamo metterlo, e per proteggerlo nel breve periodo, ma anche per farlo fruttare un po' da qui in prospettiva? L'economia sta rallentando e di conseguenza è chiaro che tutto quello che accade a livello finanziario si sta trasferendo inevitabilmente anche nell'economia reale, per cui fare dei discorsi di prospettiva è difficile per tutti. Noi ci stiamo provando, eravamo rimasti però alla considerazione sulla fiducia fatta dall'ascoltatore di Roma, che dice: ma insomma, ancora una volta torna su un tasto dolente che abbiamo ampiamente commentato. Dove le scegliamo le obbligazioni, quelli che si possono ritenere sicuri, se anche quella vetrina di patti chiari che ci dovrebbe dare la misura del grado di sicurezza dell'investimento ha sbagliato clamorosamente con Lehman? Vitaliano, so ci vuoi tornare, però insomma, patti chiari modifica il rating in relazione alla modifica che fanno le grandi agenzie. Loro non l'avevano fatto e non ha fatto manco patti chiari. Infatti anche i gestori scelgono i bond da inserire nei fondi in base appunto al rating delle agenzie. Lì c'è un problema di conflitto di interessi, perché l'azienda a chiedere all'agenzia di rating di ottenere un giudizio appunto su se stessa. È chiaro che c'è lì un potenziale conflitto di interessi con l'agenzia di rating che va tagliato in qualche modo. Mi auguro che nei prossimi mesi sarà anche regolamentato questo settore. Certo, il problema è capire chi può pagare delle agenzie che facciano questo lavoro di elaborazione di pagelle delle società, quindi altri soldi forse come contribuenti dovremmo sborsare in futuro, ma questo è un altro aspetto secondo me. Volevo segnalare pure che in uno dei nostri articoli la settimana prossima appunto indichiamo come uno dei pochi fondi che garantisce anche le obbligazioni sono quelli è stato creato dalle banche di credito cooperativo. Sono le uniche ad avere un fondo interbancario che garantisce le obbligazioni. Cioè, mi fammi capire, se una filiale del banco di credito cooperativo situata in qualsiasi parte d'Italia avesse venduto un'obbligazione Lehman, adesso no, ha costituito... No, sono i bond emessi dalle BCC. Dalla stessa banca, BCC, quindi, ok. Sì. Antonio da Roma, buongiorno. Buongiorno a lei, complimenti per la trasmissione. Ci dica. Volevo fare questa domanda. I conti correnti e i depositi sappiamo che in base alla legge bancaria sono garantiti fino a 103.000 euro. Sì. Nel caso di conto arancio di ING o di conti come quello di Barclays, che sta pubblicizzando molto, questa garanzia esiste o non esiste? Allora sì, Antonio, esiste, nel senso che le banche estere che operano in Italia poi si conformano alla legge italiana. Esiste per tutti i conti online e noi ne parliamo appunto in plus, però bisogna stare attenti quando questo conto corrente viene vincolato, perché a quel punto ci sono dei chiarimenti appunto da fare, da chiedere alla propria banca, perché in alcuni casi anche in questi conti sono garantiti dal fondo interbancario, il caso appunto di ING Direct e Banca. Invece per altre questi conti vengono vincolati a dei pronti controtermine sottostante, e sappiamo che i pronti controtermine non rientrano nel discorso del fondo interbancario. Ecco, tra l'altro, se andate a vedere bene anche le modalità di apertura, per esempio, di un conto di deposito con ING, loro permettono di aprire un massimo di 5 conti e ogni conto non deve avere un deposito superiore ai 103.000 euro, quindi il limite massimo del fondo interbancario, per cui anche questo ci deve dare la sicurezza. Torniamo a Massimo Rastelli, private banker, investitori SGR Gruppo Allianz. Magari torniamo ai casi di Piazza Affari. Abbiamo ricordato come la questione di Unicredit abbia ovviamente condizionato pesantemente l'andamento degli altri titoli del settore bancario, non tutti per la verità, però generalmente questo, come lo reputa, a parte diciamo le vicende domestiche di casa nostra, come per esempio in Francia possono avere le loro e in Germania è ancora un settore dal quale stare assolutamente lontano, o comunque c'è un ambito bancario che si salva, non so, per esempio le popolari nel nostro paese, Rastelli? Ma allora direi che ci troviamo in una fase nella quale l'esperienza è stata questa: le banche buone, le banche che non hanno avuto coinvolgimento con i mutui, le banche che non hanno in portafoglio azioni Lehman, sono state a livello europeo e anche italiano massacrate, quasi in certi casi nella stessa misura, e citiamo ancora Unicredit, come alcune banche europee che insomma sono state pesantemente coinvolte direttamente nel problema. Cioè, questo per dire cosa? Che si tende a semplificare, a generalizzare. Quando un settore è sotto pressione, avere il miglior titolo di quel settore non ti mette assolutamente al riparo dalle difficoltà. Però in realtà questo ci deve anche far riflettere sulle opportunità che ci sono, no? Cioè, il fatto che un Unicredit abbia perso il 60% rispetto ai suoi valori massimi, avendo un'inezia investita in obbligazioni Lehman piuttosto che nei mutui subprime, dimostra come il mercato faccia queste semplificazioni e quindi lasci sul terreno delle ottime opportunità. Sul discorso delle popolari vale lo stesso discorso, nel senso che nel momento in cui il coinvolgimento, come in molti casi, è bassissimo con prodotti a rischio e il titolo ha subito pesantissime correzioni, queste sono delle opportunità, proprio perché non credo che il settore nel suo complesso vivrà delle crisi spaventose in Italia. Ecco, molti piccoli risparmiatori italiani, Rastelli, scelgono di investire a Piazza Affari puntando spesso e volentieri, questo è un atteggiamento molto diffuso fra gli italiani, su titoli che riconoscono e conferiscono un flusso di dividendi interessanti, quindi puntano sulla cedola. Secondo lei, alla luce della crisi attuale, da qui in avanti ovviamente i bilanci di tutte le società ne risentiranno, cambierà anche la politica di remunerazione agli azionisti per qualche gruppo? Indubbiamente nel momento in cui una società deve rivedere al ribasso per una serie di motivi, compresi il calo della domanda nel proprio business o il calo di redditività in generale, penso al caso di una banca, è chiaro che la società deve fare i conti con questi dati e deve in certi casi adeguare la politica dei dividendi. Le società più esposte al ciclo economico, più esposte a un eventuale rallentamento della domanda, quindi beni di consumo durevoli, ragionevolmente potrebbero dover rivedere al ribasso le proprie stime di utile e quindi anche di dividendo. Nel caso delle banche, stesso discorso, nel momento in cui ci potrebbe essere una contrazione degli utili, anche le cedole potrebbero essere tagliate. In buona sostanza, la cedola in ogni caso non è il tasso di interesse che dà un CCT, quindi un qualcosa di assolutamente indipendente dall'andamento di un business sottostante. Qui il business sottostante è qualcosa di decisivo, quindi il problema è oppure avere una cedola che viene confermata ma il prezzo dell'azione che scende, quindi nel breve periodo bisogna tener conto di entrambe le cose. 800 24 00 24, numero verde per gli interventi degli ascoltatori. Abbiamo ancora pochi minuti di tempo, poi come ogni venerdì abbiamo la guida alla lettura con Gianfranco Fabi. Concludiamo, forse abbiamo anche il tempo di inserirne un'altra con Carlo da Bologna. Noi, Carlo, volevamo rassicurare un po' tutti, ma lei ci fa ripiombare nella realtà, vedo dalle anticipazioni del suo intervento. Sì, desideravo conoscere, buongiorno. Buongiorno a lei. Desideravo conoscere un vostro parere a proposito della lettera pubblicata sul Sole 24 Ore di oggi e anche sul sito del Sole 24 Ore di un pool di economisti, fra i quali ce ne sono di prestigiosi collaboratori anche del giornale. Boeri, Micossi, Alesina e quant'altro, sì. Scrivono cose, direi che definire spaventose è dire poco, perché scrivono testualmente che non è esagerato dire che i mercati potrebbero smettere di funzionare se i governi nazionali europei non intervenissero per calmare la situazione. Scrivono addirittura letteralmente che le turbulenze dei mercati devono essere fermate perché causano gravissimi danni all'economia reale, costituendo poi un parallelismo con la crisi degli anni 30. Beh, un attimo, Carlo, lei dice, insomma, dipingono uno scenario pessimo, secondo me prendono molto banalmente atto della situazione, quella che è maturata fino a questo momento, e quindi invocano, insomma, un intervento deciso dal punto di vista delle autorità. Sì, però fino a qualche settimana fa gli stessi economisti, perché li seguo molto attentamente, dipingevano uno scenario molto più ottimistico. Quindi, a mio avviso, l'allarme è tale proprio perché le stesse persone che dipingevano uno scenario più ottimistico fino a qua, pochissimo tempo fa, ora prendono atto di uno scenario che è davvero molto molto preoccupante. Carlo, io la ringrazio, devo salutarla perché abbiamo un minuto e mezzo di tempo, anche se poi il posto giusto per commentare questo tipo di osservazioni è magari Focus Economia, ma noi ci proviamo in ogni caso, cerchiamo così di leggere anche per voi quello che dicono i grandi economisti. Comunque, Massimo Rastelli, c'era un'altra osservazione interessante che faceva questa mattina Beda Romano, che è il corrispondente da Francoforte del Sole 24 Ore, raccontando quello che è successo ieri a Francoforte da parte della Banca Centrale Europea, che ha modificato le sue intenzioni sui tassi nel breve. Nel giro di una settimana, dice Beda, è come se la Banca Centrale Europea avesse preso coscienza del fatto che la situazione è drammaticamente cambiata. Cosa dice delle osservazioni di Carlo da Bologna? Ma allora, direi che la Banca Centrale Europea è un po' la spina del fianco di quelli che fanno il nostro mestiere in Europa, nel senso che dall'altra parte dell'Atlantico, pur con degli errori, c'è un attivismo, no? Nel cercare di fornire al mercato tutti i supporti necessari in termini di politica monetaria, quindi liquidità al sistema, interventi per salvare il sistema bancario. In Europa il meccanismo è un po' più farraginoso, mi spiego con un dato. Il problema è che la Banca Centrale Europea debba essere custode della stabilità dei prezzi in questo momento sembra anacronistico. Abbiamo un petrolio che ha perso il 30% del suo valore, materie prime che più o meno sono mosse in quella direzione, probabilmente quelle componenti da qui a un anno giocheranno in senso deflattivo, per cui il problema della stabilità dei prezzi oggi è un non problema, il problema oggi è evitare una recessione, dare fiato all'economia. Quindi direi meglio tardi che mai. Lei ritiene che sia giusto un intervento delle autorità anche a livello europeo? C'è il vertice del G4 questo fine settimana, convocato da Sarkozy a Parigi. In 30 secondi si ce la fa, Rastelli? Sì, assolutamente. Direi di sì, proprio per quanto, ricollegandomi a quanto dicevo prima, se il fronte si sposta sulle banche europee, da parte anche di hedge fund, speculatori, venditori al ribasso, eccetera, è molto importante sapere che ci sono delle autorità monetarie, delle autorità finanziarie monetarie che supporteranno il sistema. Quindi io direi che una risposta deve esserci, è importante che ci anche sia. Anche se ci può consolare, il fondo che si sta predisponendo eventualmente in Europa ammonta a 300 miliardi di euro. Beh sì, insomma, non dico che siamo quasi sul livello di quello, beh, è in euro però, in italiano. Euro, hai ragione. Grazie a Massimo Rastelli, a Vitaliano D'Angelio per essere stati con noi. A Salva Denaio è tempo della nostra guida alla lettura con il vice direttore vicario del Sole 24 Ore, Gianfranco Fabi. Un libro di economia a cura di Gianfranco Fabi. Buongiorno, bentornati ai nostri ascoltatori a questa puntata dedicata ai libri di economia. Oggi parliamo con Marco Niada della Nuova Londra. Buongiorno Marco Niada. Buongiorno. Marco Niada, forse gli ascoltatori di Radio 24 l'hanno sentito altre volte, è il corrispondente del Sole 24 Ore da Londra e ha scritto questo libro dedicato appunto alla Nuova Londra, definita la capitale del XXI secolo. Un'esperienza di oltre 15 anni vissuta nella capitale inglese ha portato Niada a descrivere le grandi trasformazioni che si sono avute in questa città con un'ottica direi sostanzialmente positiva, e in fondo Niada è affascinato da questa grande Londra. Come mai, Marco? Ma guarda, il primo motivo è che questa città ha aumentato la popolazione in questi 15 anni, che sono stato di 1 milione di abitanti, e che la massima parte di questi, tra chi è entrato e chi è uscito, sono stranieri. Oggi un abitante su 3 di Londra è nato all'estero, mentre era 1 su 4 ancora 10 anni fa e 1 su 5 20 anni fa. Questo vuol dire che questa città ha avuto la capacità di assorbire una quantità incredibile di stranieri senza in fondo avere grandi tensioni. Al contrario, è riuscita a metterli a frutto, come gli inglesi sanno fare, e grazie anche a un paese in cui c'è una città ovviamente, in cui c'è certezza della legge, regole chiare, è riuscito a utilizzare, se si può dire, questa popolazione, gran parte della quale è composta da professionisti, e far sì che Londra abbia avuto una crescita, specialmente negli ultimi anni, del 4-4,5% rispetto al 2,5% della Gran Bretagna. Quindi diciamo Londra è cresciuta un po' col ritmo di un paese emergente. L'altra cosa da ricordare è che la mano d'opera qui a Londra in grandissima parte è composta da giovani, come se fosse di nuovo un paese emergente anche in questo caso, e il 40% è diplomato, laureato. Quindi insomma questi sono tutti dati molto interessanti. L'altro motivo è che qui a Londra è tutta un'economia di servizi, l'altro motivo che ha ispirato il libro, 91%, e può essere un po' diciamo il futuro di quello che sarà l'Occidente, considerando che Cina e India iniziano a eroderci a noi occidentali tutte quelle che sono le parti dell'industria, e quindi Londra di questo 91% di servizi peraltro ha almeno la metà di servizi a alto valore aggiunto, che possono essere finanza, pubblicità, musica. Certo, arte, software, ecco, arte, mercato dell'arte, eccetera. È chiaro che non tutte le città d'Europa possono seguire questo modello, però quello che ha fatto Londra è stato estremamente affascinante. Quindi è un po' una città che è un modello, una rappresentazione, molto di più che un simbolo, un po' della globalizzazione, una città che partecipa a pieno titolo alla globalizzazione, in cui si è creato in fondo un nuovo impero, un impero non più segnato dalle colonie, ma segnato dal fatto di essere un po' al centro degli scambi, non tanto commerciali, quanto appunto finanziari e culturali, con il resto del mondo. È un po' questo che ha dato il tono della Nuova Londra? Assolutamente, allora bisogna considerare che Londra ha sempre avuto una vocazione cosmopolita, se si considera che l'hanno fondata i romani e l'hanno fondata nel loro interesse, quindi l'ha messa proprio in un angoletto a sud-est dell'isola che poi comunicava con il resto dell'Europa, poi hanno anche avuto la fortuna che Londra è forse il posto di tutta l'isola in cui il tempo è più clemente e più asciutto, questo gli è andato anche bene. Comunicava attraverso un fiume e poteva poi controllare il resto del paese, almeno il sud che era la parte più ricca e popolosa. Dopodiché Londra ha vissuto tempi bui fino al 500 e poi sotto la regina Elisabetta, grazie ai commerci, agli scambi, alle scoperte eccetera, ha iniziato a mettere le marce alte e a diventare quella che è stata poi una città destinata a diventare la più globale del mondo, prima di un impero commerciale a fine 700 che scopriva i 7 mari e poi nell'800 con la rivoluzione industriale a mettere una marcia in più perché era diventato un po' il motore del mondo. Oggi, dopo la prima guerra mondiale, quando Londra ha iniziato a decadere a causa anche dei nazionalismi, questo è interessante, la forza di Londra è inversamente proporzionale all'apertura del mondo. Quando sono arrivati i nazionalismi, il nazionalsocialismo, poi la degenerazione del fascismo, il nazionalsocialismo, e c'è stato poi il protezionismo, Londra ha iniziato a perire, perché Londra già allora era molto di più che il centro della Gran Bretagna, ma era il centro di un impero. Oggi, come tu dici giustamente, è il centro di un impero più astratto, perché Londra è riuscita a mettersi un po' a triangolo, al centro, insomma, diciamo al centro di transazioni che comprendono l'America, l'Europa, il Medio Oriente e l'Asia, e con l'America un po' grazie al fuso orario perché è più vicina di un'ora agli Stati Uniti, ovviamente grazie alla lingua, grazie poi alle ex colonie, perché pensiamo soltanto all'India, certo. 200 milioni di persone parlano inglese, Medio Oriente, insomma, l'inglese è una lingua franca, e poi col resto dell'Europa è riuscita invece a confermarsi, diciamo, come centro finanziario. Per cui questi vari punti di forza. E un'altra cosa interessante, anche come centro dell'industria della musica, così una piccola curiosità, che a Londra la somma di tutti gli addetti musicali di Londra è uguale alla somma di tutti gli addetti dell'industria della musica in tutto il resto d'Europa. Ecco, un'idea. Londra è anche una meta turistica, e questo libro può essere un manuale per conoscere più da vicino Londra, per quanti, e sono moltissimi gli italiani che vi si recano. Marco, qual è il problema principale di Londra adesso? Qual è il problema che, tra l'altro, il nuovo sindaco Boris Johnson, che tu conosci molto bene, sta cercando di affrontare? Ma guarda, il problema per Boris Johnson a breve è la criminalità, diciamo però non la criminalità in genere, perché la criminalità in genere curiosamente è anche scesa a Londra. Quella che preoccupa è la criminalità giovanile, e questa è in forte ascesa. L'anno scorso ci furono 27 morti accoltellati, adesso siamo arrivati già a 26 nei primi 8 mesi dell'anno. E quindi questo è molto preoccupante. Il sindaco ha già detto che deve correre ai ripari, che questa è una cosa che deve cessare, e quindi questa violenza, questo vandalismo, questa violenza privata, il problema di questi giovani che escono da famiglie disgregate, sono uno dei principali problemi di Londra. C'è poi un secondo problema, purtroppo, che ormai è mondiale, ma Londra rischia di picchiare più duro che altrove, ed è la crisi finanziaria. La crisi finanziaria che arriva dall'America, consideriamo che la City di Londra dipende in grande parte, certo, dalle banche americane. Le banche americane iniziano a licenziare, ci sono già previsioni che in questo biennio nella City 20-30 mila persone, anche di più forse, possano perdere posti di lavoro. Quindi su 350, insomma, parliamo quasi fino a un 10% potrebbero. Sì, quindi che non è poco. Diciamo una città che vive in fondo, fino in fondo, le contraddizioni attuali, le contraddizioni e le difficoltà che sono comuni anche a molte altre città, quelle della criminalità, quelle appunto del cambiamento anche degli assetti finanziari. Certamente Londra ha dimostrato negli ultimi anni un grande dinamismo, una grande capacità di adattamento. Vedremo nei prossimi mesi, e Marco Gnada ce lo racconterà, come saprà rispondere anche a queste nuove esigenze. Grazie a Marco Gnada, abbiamo parlato del suo libro La Nuova Londra, capitale del XXI secolo, edito da Garzanti. Sono 300 pagine al costo di €17,50, un libro che si legge molto con grande capacità di presa, con grande capacità di fornire delle risposte, perché esamina appunto tutti i problemi di una grande città contemporanea, ed è insieme un manuale di storia, una guida turistica e anche qualcosa che ci aiuta a capire un po' la vita in un mondo ormai globale. Grazie a quanti ci hanno seguito, alla prossima puntata. E grazie a Gianfranco Fabi, vice direttore vicario del Sole 24 Ore. Termina qui la guida alla lettura, termina anche Salva Danaio. Io volevo solamente rispondere ad un ascoltatore che chiede se la borsa russa è ancora chiusa. No, ma intanto il Parlamento stamattina ha votato anche in Russia un maxi piano di salvataggio e sostegno al sistema bancario russo. È tutto da Deborah Rosciani a lunedì, buon fine settimana a tutti.